Vorrei avere la penna di un veloce scrittore. Vorrei avere delle parole così armoniose da superare ogni sublime sinfonia. Vorrei avere parole tali da scuotere ogni coscienza. Vorrei che queste parole fossero scolpite per sempre nel mondo. Vorrei che fossero conosciute da tutti, ricchi, poveri, bambini, adulti, felici, infelici. Non avendone di migliori, esprimo il mio desiderio con le parole di Mosè. Porgete orecchio, o cieli, e io parlerò, e ascolta, o terra, le parole della mia bocca. Il mio insegnamento scenderà come la pioggia, la mia parola stillerà come la rugiada, come la pioggerella sull'erba tenera e come un acquazzone sugli arbusti. Deuteronomio 32, 1 a 3. Non so se questo desiderio sarà esaudito, ma sono sicuro che tra le riflessioni fatte nella mia vita, queste costituiscono ciò che il ferro, come minerale, è nell'organismo dell'uomo. È presente in quantità millesimale, ma la sua carenza o mancanza denuncia stati di grave e a volte fatale e letale anemia, poiché sempre più riscontro quanto la vita abbondante promessa da Gesù Cristo ai figli di Dio sia rara, poiché molti fra coloro che si definiscono cristiani hanno una anoressia spirituale cronica, poiché nel rapporto fraterno le persone sono trattate come problemi da risolvere, piuttosto che persone uguali, per quanto distinte, a noi e con le quali ci troviamo, nostro malgrado, ad avere a che fare nella vita comunitaria. Poiché molti figli di Dio non corrono verso nessuna meta, ma si accontentano di tirare avanti, non occorre molta fantasia per arrivare a concludere che in loro manchi almeno un elemento. Questo elemento io lo individuo nella mancanza di riconoscenza. Proprio perché la riconoscenza è come il latte per un neonato, l'arma per un soldato, la luce per gli occhi, l'ossigeno per noi e il nostro globo terrestre. Dobbiamo dare ad essa l'importanza vitale che ha per la salute spirituale, morale e fisica. Non si può negare che la Bibbia, la parola di Dio, contenga centinaia e centinaia di prescrizioni per rapportarsi con Dio, con il prossimo, come con noi stessi. Questo fatto induce molte persone a scoraggiarsi nel leggerla e, spesso, anche nel fare una sintesi di ciò che è scritto per conoscere la volontà di Dio. La volontà di Dio è espressa molto chiaramente: chi pone la propria fede personale in Cristo quale Salvatore ha vita eterna. In conseguenza a questa indiscutibile affermazione dell'amore di Dio verso la sua creatura, mi indirizzo all'imperativo che dovrebbe precedere, contenere, seguire ogni altro comandamento, alla riconoscenza. Leggiamo nella lettera ai Colossesi al capitolo 3, versetto 15, siate riconoscenti. Dovessi scegliere solo due parole della parola di Dio che facessero felici le persone, che le rendessero gradite a Dio e che garantissero una convivenza ottimale e riuscita, sceglierei solo questo imperativo. In quest'ordine è racchiuso il segreto di una vita abbondante, fruttuosa, appagata. Forse è per questo che rimango perplesso davanti all'atteggiamento così negativo di alcuni verso la vita. Tutto è ragione di lamentele. Ci è troppo caldo o troppo freddo? Ci è troppo vento o non si muove una foglia? Ci è troppo rumore o troppo silenzio? Tutto è ragione di insofferenza. Condannano gli altri perché non sanno parlare, perché sono disonesti, ingrati, i politici non capiscono niente. Nulla va bene se non ciò che loro ritengono bene. Nulla è giusto se non ciò che loro ritengono giusto. L'espressione della religione è la loro propria rigidità. E, incredibile come la vita, per queste persone, sia ostile a ogni piè sospinto. Sono persone che, per forza di cose, hanno una insoddisfazione e inquietudine di fondo, covano nel cuore un odio verso la vita e, ovviamente, anche verso Dio. Non lo dicono apertamente, perché non sta bene, ma in molte conversazioni vertenti su cose religiose, per quanto essi parlino sì di Dio con un rispetto religioso, il loro comportamento esalta molto bene il rifiuto che alberga nel loro cuore verso la vita, così come Gesù Cristo l'ha concepita, creata ed imposta. Tali persone non godono di ciò che la vita offre di positivo, anche se Dio ha fatto ogni cosa bella nel suo tempo. Ecclesiaste 3 e 11. È vero che la situazione attuale della creazione non corrisponde più a quella iniziale, che tutto è corrotto, ma di gioie e piaceri la vita è comunque piena. Da un certo punto di vista è normale, per un'anima che non ha conosciuto l'amore di Cristo, essere ingrata, ma ciò che fa rimanere allibiti è l'atteggiamento di alcuni figli di Dio. Sono grati della salvezza, così almeno sembra, la domenica mattina, quando si trovano con altri per rendere un culto. Ma, per tutto il resto del tempo, non sono diversi da chi non ha avuto un incontro personale con Gesù Cristo. Figli di Dio che correggono, censurano o disprezzano la condotta degli altri, pronti ad esprimere opinioni cattive su ognuno, hanno uno spirito distruttivo, pronti alle critiche per tutto e in tutto. E, soprattutto, per chi si adopera per il regno di Dio, senza, ahimè, tener conto che, quando qualcuno parla male di un altro, di fatto, rivela molte più cose su se stesso che sull'oggetto di cui sta parlando. Ciò non può provenire che da un cuore in cui regna l'insoddisfazione, da un animo tormentato, un cuore che non sia stato appagato da Gesù Cristo, nel quale, del continuo, spunta una radice di amarezza, Ebrei mezzogiorno e un quarto, che infiamma il corso della vita, Giacomo 3.6. Credenti, eternamente insoddisfatti, ingrati, irreligiosi. Non importa se siamo atei o religiosi, non ha nessun valore a quale religione apparteniamo o che filosofia seguiamo, perché tutti abbiamo un disperato bisogno di esprimere la riconoscenza, come di sapere che altri hanno della riconoscenza verso di noi. Se questa virtù non è messa in pratica, ovunque regna l'insoddisfazione. Dove non vi è riconoscenza, vi è odio, terrore, vendetta. Non esiste un sentimento neutro. In un cuore riconoscente non vi sono e non possono dimorare sentimenti negativi. La riconoscenza porta il clima del cielo in questa terra. Se ebrei, musulmani, cattolici, protestanti, ortodossi avessero un cuore riconoscente, avremmo risolto i problemi a livello mondiale. Abbiamo il bel da fare per insegnare al prossimo ad amarsi, ma se non lo educhiamo ad essere pieno di riconoscenza, insegniamo invano. Senza gratitudine, senza riconoscenza, tutto rimane insipido. La gratitudine è il sale della vita, l'antidoto per le inimicizie, per le contese, per le guerre. Giacomo, il fratellastro di Gesù, senza peli sulla lingua, disse: «Da dove vengono le guerre e le contese fra voi? Non provengono forse dalle passioni che guerreggiano nelle vostre membra?» La gratitudine concilia, riconcilia, cerca il positivo, guarisce, comprende. Un cuore riconoscente non è solo salute per l'anima, per i rapporti sociali, ma anche per la salute fisica. Quante malattie si potrebbero evitare con un cuore riconoscente? Quando Gesù disse: «La lampada del corpo è l'occhio. Se dunque l'occhio tuo è puro, tutto il tuo corpo sarà illuminato», dava anche il segreto di una vita sana. Chi ha un occhio benigno, un sguardo pieno di gratitudine, chi si muove sul terreno della riconoscenza, non si ammala di quei sintomi tipici di chi cova odio, rancori, vendette, amarezze. Molte persone hanno trovato e ritrovato la salute quando sono state liberate da sentimenti negativi e quando al loro posto è sorto il debito della gratitudine. Dobbiamo curare questa pianta rara nel giardino del nostro cuore se vogliamo raccogliere i suoi frutti. Tutti coloro che sono riconoscenti sono felici e a loro volta rendono felici gli altri, mentre la felicità da sola non sempre porta con sé la riconoscenza. La riconoscenza costa poco e retribuisce bene. La riconoscenza è l'olio che lubrifica il motore della vita. La persona insoddisfatta non è mai contenta di quello che ha, di quello che vede, di quello che sente, di quello che prova. Trova sempre qualcosa che non va e non riesce a gioire delle piccole cose. Per chi è riconoscente, per usare un'espressione biblica, ogni cosa amara è dolce. Egli chiude il libro delle lamentele e ignora cosa la vita gli deve. Conosce e riconosce la propria imperfezione e non la fa scontare agli altri, si accontenta di ciò che possiede, dimentica ciò che ha compiuto, esprime la sua gratitudine con tutti i tipi di tempo, meteorologico e su ogni tipo di terreno dedica del tempo a servire l'umanità e soprattutto la comunità imperfetta in cui vive. La riconoscenza può abitare solo in un cuore umile, è il modo di vivere per il quale siamo stati creati. Quando Mosè ricevette dall'Eterno i 10 comandamenti, ricevette anche tante regole per presentare delle offerte a lui. Tra queste disposizioni leggiamo nel libro del Levitico: ogni oblazione di cibo che offrirai la condirai con sale, non lascerai mancare il sale del patto di Dio dalle tue oblazioni. Su tutte le tue offerte offrirai del sale. Levitico 2:13. L'Eterno Dio aveva stabilito che ogni offerta contenesse del sale, diversamente l'offerta non sarebbe stata gradita. Così è della riconoscenza. Ogni opera, ogni offerta fatta a Dio, ogni gesto a favore del prossimo, se non contiene la riconoscenza, non può essere gradita. La riconoscenza non sempre cambia il modo di vivere, anche se il modo di vivere cambia, perché si continuerà a rendere il culto a Dio, a lavorare, a visitare i parenti, ad essere marito e moglie, fare sesso, ad essere dei figli ubbidienti, a vivere in comunità, ad andare dal dottore, a fare la spesa, insomma tutto ciò che comporta la vita. Ma un cuore riconoscente renderà il culto a Dio, visiterà i parenti, sarà un partner, farà sesso, onorerà i genitori, andrà dal dottore, farà la spesa, con un atteggiamento diverso. Questo è il punto. Ciò che cambia la riconoscenza è proprio l'atteggiamento, la disposizione d'animo verso ogni espressione della vita. La riconoscenza è come il sale, invisibile, eppure esalta il cibo, e invisibile come nessuno di noi è in grado di comprendere se chi prega, chi fa spesa o sesso compie con un atto di riconoscenza, ma esalta il cibo, perché il sale da solo non è buono, ma mescolato con gli alimenti rende più gustoso ogni cibo. La riconoscenza esalta ogni servizio religioso e sociale. La riconoscenza previene nei giorni felici la sconsideratezza, nei giorni tristi la disperazione. Chi ha un cuore riconoscente non guarderà le cose dal lato peggiore, ma si sforzerà di dare la veste migliore a quelle circostanze che di per sé non hanno per niente una buona apparenza. Dove c'è e la riconoscenza, tutto sorride, è favorevole. Un giorno, alle 2 di notte, mi telefona mia mamma perché si sente male. Nello spazio di mezz'ora, dopo una conversazione, il dolore si attutisce e può riprendere a dormire. Potevo tornare a coricarmi indispettito per il disturbo e, se vogliamo, per l'inutile telefonata. Ma ho appoggiato il mio capo sul cuscino con un cuore allegro e riconoscente, perché il tutto si è risolto nel migliore dei modi. La riconoscenza è una scelta dettata dalla ragione, perché ogni situazione negativa ha il suo aspetto positivo, perfino di fronte alla morte. Una donna piangeva perché le era morto il marito e si lamentava perché con lui trascorreva una vita serena, e questo per più di 40 anni. La invitai ad essere riconoscente verso Dio perché aveva ricevuto il dono di poter vivere in armonia con il marito per più di 40 anni, cosa che poche spose possono testimoniare. La riconoscenza spunta là, dove vi sono tutte le ragioni per avere dei sentimenti di negatività. La riconoscenza dunque è il fiore nascosto che si trova nel deserto della vita. Pochi lo hanno visto, pochissimi lo hanno coltivato. Non solo, ci sono sempre motivi nuovi di riconoscenza, ma bisogna acquisire la capacità di esprimere la gratitudine costantemente. Sì, perché lo scopo supremo della vita è rendere gloria a Dio mediante una relazione di gratitudine. La riconoscenza è una virtù divina che il più delle volte è realizzata da chi ha sperimentato la nuova nascita. Per questo, a coloro che hanno fatto questa esperienza, l'autore della lettera agli Ebrei scrive: perciò, ricevendo il regno che non può essere scosso, mostriamo gratitudine, mediante la quale serviamo Dio in modo accettevole, con riverenza e timore. Ebrei, mezzogiorno e 28. Secondo la Scrittura, se non vi è un cuore riconoscente, ogni servizio nel regno di Dio non è accettevole. Per raggiungere un fine divino occorre il metodo divino per eccellenza, un cuore che trabocca di riconoscenza. La riconoscenza dunque non solo è utile, ma indispensabile, e ciò che Dio considera indispensabile è tale veramente. Gennaio 2004 Ellero.